Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Patrizia era una bambina diligente, se non pure intelligente, come diceva spesso la sua mamma. Ma quando arrivava la sera, qualcosa la ossessionava. Salve, sono Patrizia, sono di Priverno, paese in provincia di Latina, nel centro Italia. Ho 51 anni e lavoro in una scuola pubblica. Ho due figli, Paolo Roberto, di 19 anni, e Valerio, che oggi festeggia il suo 13° compleanno. Quando si è ragazzini, quando si è bambini, si hanno milioni di paure. La paura che ci sia un mostro sotto il letto, la paura che tua mamma ti abbandoni all'asilo quando vai, per cui piangi come un disperato perché non sai che lei poi tornerà alle 4 a prenderti o a mezzogiorno a prenderti. Ce ne sono decine, centinaia, quasi ce le dimentichiamo. E poi ce n'è una che quasi tutti i bambini hanno o hanno avuto, che ha a che fare con una cosa molto più profonda, che ha a che fare con la propria identità. Ancora non lo sai perché sei piccolo, ma quella cosa lì riguarda chi sei tu e da dove arrivi. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui e io sono Matteo Caccia. Sono le 16:08 minuti in punto, quasi 9, è un bel mercoledì, è il 2 di aprile del 2014 e noi continuiamo a raccontare storie ogni giorno alle 4 in diretta. Una storia diversa ogni giorno, una persona diversa che racconta un pezzo della sua vita, e quel pezzo della sua vita, se gli è realmente appartenuto, se è una storia, come tutte le storie, se ha un inizio, uno sviluppo e una fine, è anche un po' una storia nostra. La storia che ci è arrivata di Patrizia era accompagnata da una mail, come spesso succede, e devo dire che queste mail che Margherita ci copia, Margherita quando ci manda i racconti ce li smista e li manda a me, Tiziano, ci mette anche quelle tre righe di presentazione che ci sono nelle mail. E devo dire che questa mail di Patrizia mi aveva abbastanza colpito, perché diceva: questo è il mio racconto, è un pezzo della mia infanzia, la storia di una bambina di un paese del centro Italia, più precisamente il Lazio, un paese che si chiama Priverno. La bambina che ascolta dietro la porta, temendo di scoprire qualcosa, sono io. Ora ho 50 anni, sono moglie e madre di due ragazzi. Ho conseguito una laurea in lettere e lavoro in una scuola pubblica come direttore amministrativo. Questa storia mi ha accompagnato per tanto, tanto tempo. Se vi piace, io sono qui. E questa storia ovviamente ci è piaciuta perché è una storia che non ha il botto. Non è una storia che alla fine dici ma dai. Però è una storia che lentamente lavora da qualche parte dentro di te, perché quella bambina che rimane fuori dalla cucina di casa propria e aspetta quei 30 secondi, quel minuto, quei due minuti prima di entrare a cena e mettersi a tavola con la famiglia, è una bambina che vuole capire quale paura abbia. Qual è? Cos'è che vuole capire questa bambina che è lì, che aspetta? E lentamente lo capisci. 349-238-6666 è il numero per mandarci sms in diretta fino alle 16:30. Oppure abbiamo un profilo Facebook che è Voi siete qui Radio 24, ma anche un profilo Twitter che è Voi siete qui R24. Io non ve lo voglio dire, non ve la voglio raccontare la paura di Patrizia. Voglio che la racconti lei con la sua storia. Però voi fate questo piccolo sforzo. Adesso, questa giornata di primavera, siete in auto, siete al lavoro, ovunque voi siate. Immaginate di essere un po' di anni fa, insomma, lei ora ha 50 anni, quindi, direi 40 anni fa, almeno, 40-45 anni fa. Quindi adesso mi butto in un calcolo, 1960, 70, tra il 60 e il 70, in un paese del centro Italia, una casa come ne conoscete, con le scale di marmo bianco, lei lo specifica, c'è una cucina dove c'è una famiglia che si riunisce, ecco, quella cucina è un po' anche la vostra, quella famiglia che si riunisce forse è la vostra, e non lo so se la paura di Patrizia è anche la vostra. Era una sera autunnale, come tante altre, l'aria era grigia, i vicoli avevano un manto di acquosità come è tipico di questi posti. Siamo nell'entroterra di un paese dell'Italia centrale e all'imbrunire calava quella brezza che non era per niente piacevole. Le case erano buie, poco soleggiate, ma i bambini non lo notavano. La stufa scoppiettava nel corridoio antistante la cucina. Era una stufa a cherosene, di quelle di un tempo, che con un grande tubo riscaldava tutta la casa di via San Giorgio. La famiglia era quasi al completo, pronta per la cena. La tavola era apparecchiata con la solita tovaglia a quadrettoni. Sopra, 6 piatti, 6 bicchieri, 12 posate, 6 tovaglioli, ognuno col suo segno distintivo. Se si mangiava il primo, di solito una minestra, le posate potevano anche essere 18. Era questo un calcolo che facevano sempre, perché a seconda di chi doveva poi lavare i piatti quella sera, il lavoro poteva essere più o meno faticoso. Patrizia, da fuori della cucina, fece un rapido calcolo che non sarebbe toccato a lei. Meno male. Pippo si era già accomodato al suo posto, il posto di Pippo, dove nessuno lo disturbava. Era esattamente davanti al muro portante della casa. Annetta, la moglie, era ancora in piedi, davanti ai fornelli, per gli ultimi controlli sulla sapidità delle pietanze. Gli altri, i fratelli, c'erano più o meno tutti. Si cenava all'imbrunire, una volta che il loro papà era rientrato dal lavoro. Lavorava a Roma, all'Hotel Ritz, uno dei più grandi e importanti alberghi della capitale. I miei genitori erano due persone semplici, umili. Mia madre era una casalinga e mio padre era un operaio. Andava a Roma tutti i giorni, dall'alba fino al tramonto inoltrato. Nel mio ricordo di bambina io li vedevo come anziani, perché comunque quando io sono nata loro avevano più di 40 anni e per quel periodo era un'età abbastanza importante. Era un tuttofare il papà. Falegname, riparatore, aggiustatore, garzone di ricchi signori che lo apprezzavano perché era un gran lavoratore, indefesso e instancabile. Era di corporatura non proprio esile, aveva una bella pancia che lo faceva somigliare a un signorotto d'altri tempi, coi baffetti, corti e curati. Bassino, ma nonostante tutto agile. Andava, veniva, fumava, borbottava, rideva, s'arrabbiava, un papà, insomma. Poco presente, ma un gran lavoratore, come si diceva e come si dice ancora, quando si vuole usare un'espressione che riassuma un po' tutto in sé. Lui doveva sfamare 5 bocche, 6 con la sua. E allora, quando poteva, riusciva anche a trafugare dalla cucina dell'hotel quegli avanzi che lo chef, chissà, forse metteva da parte per lui, e forse non solo per lui. Lo aspettavano sempre con grande curiosità. Cosa porterà di buono stasera? Le pietanze più frequenti erano roast beef e tocchetti interi di Emmental. Quando arrivava con queste cose eravamo felici. Per una volta non la solita carne dura del macellaio, quello del paese che sembrava una suola. Quando rientrava la sua famiglia era quasi al completo, quasi, perché mancava solo lei, Patrizia, che non voleva mai smettere di giocare. Giocava per strada, Patrizia, amava la strada, correre, saltare, giocare con la palla. Era in apparenza spensierata, ma un cruccio la tormentava. La madre della sua amica Agnese, figlia di avvocato, che ogni volta che andava a chiamarla per andare a giocare rispondeva: «Eh no, Agnese non può, deve studiare». «Lei, ma figuriamoci», ripeteva tra sé Patrizia. «Chi se ne frega se deve studiare?». Patrizia era una bambina diligente e intelligente, come diceva sempre sua mamma. Ma quando arrivava la sera, qualcosa la tratteneva. Sera all'ora di cena, lei voleva attardarsi sempre di più. Ma non per restare in strada, no, lei era obbediente, se la chiamavano saliva di corsa, no, lei si attardava su per le scale. La porta era socchiusa, perché doveva entrare l'odore e il calore del cherosene, e allora saliva quatta quatta attenta che nessuno la sentisse arrivare. La inebriava quel profumo che emanava la stufa, era un odore forte, intenso, indecifrabile. Non come la benzina, che dopo un po' disturba, o non come la cenere, che ha tutt'altro odore. Quello era l'odore di casa sua. La sua casa riscaldata in questo modo che richiedeva fatica fisica, bisognava salire fino su con le taniche del cherosene e pesavano un sacco, ma che quando veniva accesa prendeva, oltre che calore, forma, senso e vita. E allora perché? Perché non entrare in quella cucina? Perché non entrare e salutare con un bacio il papà, le sorelle, il fratello, la mamma? Perché non andare a lavarsi le mani per la cena che ormai era pronta? Perché voleva dedicare quei 5 minuti che la dividevano dall'ingresso della cucina a origliare? cosa si aspettava mai che si dicessero. Patrizia aveva un tormento tutto suo. Dall'ingresso che conduceva alla porta di schiusa, lei tutte le sere, ma proprio tutte, si soffermava, quasi si bloccasse su quell'uscio. Voleva perdere del tempo e aspettare. Non voleva essere subito vista. Nella sua apparente spensieratezza aveva un pensiero fisso che ininterrottamente la tormentava. Io ero una bambina giocherellona, ero la quarta sorella, insomma l'ultima, e quindi ero coccolata dai miei fratelli più grandi, giocherellona, però nello stesso tempo con delle paure ad oggi immotivate, ma per l'epoca erano delle paure importanti. Il pensiero che la tormentava era questo: no, lei non è figlia nostra, l'abbiamo adottata. L'abbiamo presa in un orfanotrofio e portata con noi. Ecco, ogni sera, dietro a quella porta, Patrizia pensava: ecco, ora lo dicono. Lo sento, ora la mamma finalmente lo dice. Dobbiamo dirglielo, deve sapere, del resto non è stupida. Lo sa che siamo troppo anziani per essere i suoi genitori. E mentre lei credeva di voler ascoltare queste parole, si rannicchiava su per i 3 gradini gelidi. Origliava. Voleva guardarla la scena, ma non ci riusciva. E allora cercava di immaginarla: mammannetta davanti al lavello, Pippo seduto al suo tavolo, al suo posto, al tavolo col piatto davanti, Enza, la sorella maggiore, che finiva di apparecchiare, Angela, l'altra sorella che brontolava, aveva fame, era una studentessa lei, e poi Romolo, il maschio di casa, che pazientemente aspettava. Tutti lì, pronti alla rivelazione. E poi, che ne sarebbe stato di lei? Cosa ne sarebbe stato della sua vita, delle sue compagne di giochi, delle sue scorribande per i vicoli del paese a sbucciarsi le ginocchia? Se era veramente questo quello che pensava di ascoltare, chi era veramente Patrizia? O chi voleva essere? Poi però era un attimo. Qualcuno la sentiva o ne vedeva l'ombra, e allora: Patri, che aspetta a entrare? Possibile che bisogna sempre aspettarti? Corri a lavarti le mani, vieni che la cena è pronta. La cena si consumava come tutte le sere, e come tutte le sere, dopo il carosello, Patrizia veniva portata a letto. L'episodio dell'uscio della porta, il suo volere ascoltare cose che non avrebbe mai ascoltato, veniva dimenticato fino al giorno successivo. E così per tanti anni, tanti, talmente tanti, che ora il ricordo è riposto in un cassettino della memoria. E ogni tanto fa capolino. Contro me cento te, pianger sembra facile. Donna adulta, ovviamente, nella foto che ci ha mandato Patrizia e che trovate sul sito se volete vederla. È autunno perché c'è una luce proprio quasi al crepuscolo e un sacco di foglie per terra. È in un bosco, immagino, sembra una via in mezzo a un parco. Lei ha addosso un cappotto semiaperto, un cappello in testa e dei lunghi capelli biondi. Pronto, Patrizia? Pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Grazie per la storia, che è proprio una di quelle storie in cui dici: oddio, adesso cosa succede? Adesso succederà qualcosa, adesso... E invece no, non succede niente, no, ed è proprio lì che sta la questione, mi sembra di capire. Sì, adesso sono andata a dormire, come hai detto, mi hanno messa a letto e ho dimenticato tutto fino al giorno successivo. Quanto è durata esattamente questa cosa, Patrizia? È un periodo abbastanza importante dell'infanzia. Ma più o meno intorno, 3 anni, oltre i 10, 12. Ah, ok. Dai 6 ai 10, va il periodo. Quindi, insomma, delle scuole elementari. Questi 4-5 anni, ma poi l'hai raccontato a qualcuno in casa? L'hai detto? Cioè, come si è risolta la questione? L'ho scritto sotto forma di racconto autobiografico all'interno di un percorso di autobiografia. L'ho scritto. Poi l'ho raccontato in altri contesti, non proprio in casa, in un altro contesto un po' più particolare. E da lì l'idea di farlo uscire. Ma ai tuoi genitori? I miei fratelli però lo hanno letto già da prima, e anche mio marito e i miei figli lo hanno letto. Ma i tuoi genitori hanno mai saputo che tu hai avuto questa paura? No, i miei genitori no, perché poi nel frattempo non c'erano più, quando l'ho scritto già non c'erano più. Che tra l'altro una delle motivazioni, mi sembra di capire, è che loro erano più anziani della norma, giusto? Quindi tu avevi la sensazione... Loro erano anziani per quel tempo, perché adesso è normale avere dei figli a oltre 40, certo. Però negli anni 60, diciamo, per quell'epoca erano anziani, e io sentivo un po' questo... disagio di avere dei genitori ultra quarantenni. Però scusa Patrizia, una cosa che vorrei capire, no, loro non ti facevano mancare affetto o cose? Assolutamente no, nessuno mi faceva mancare affetto, assolutamente, proprio nessuno di loro. Fratelli, la mamma, il papà tornava la sera tardi, ma il suo affetto lo manifestava comunque. E nessun fratello? Era una cosa mia, perché ero circondata da amichetti, amichette con genitori giovani, io era una convinzione. Pensavo di essere diversa. No, perché questa cosa delle volte scatta nei bambini, insomma è una cosa che capita quando dei fratelli, non si capisce perché, partono col dirti: ah, ma tu sei stato adottato. No, mica assolutamente, anzi loro sono sempre stati molto affettuosi perché ero effettivamente piccola rispetto a loro. Perché ad esempio... C'è una differenza tra me e la prima sorella di 15 anni, quindi ero una seconda. Chiaro, figlia, chiaro, insomma. Chiaro. Perché arriva sul nostro profilo Facebook, voi siete qui alla di 24, proprio questa cosa. Mirko, tutte le sere pensavo di essere stato adottato, prima di dormire, dopo che mia sorella più grande, dal letto di sotto, mi continuava a dire che io ero stato adottato. Poi un giorno ha smesso e non ci ho più pensato. Ma questa cosa, no, ma te la dico perché io avevo un amico la cui sorella diceva: guarda, beh, tu sei stato adottato, chiaramente ti hanno preso da una famiglia rom. Ma io quando ho raccontato questa cosa, tante persone mi hanno detto di aver pensato lo stesso, sia che fossero figli con un solo fratello o con più fratelli, quindi evidentemente è una cosa comune. Guarda, io però la sentivo particolarmente. Fabio scrive al 349-238-6666: per anni io e mio fratello abbiamo detto a nostra sorella più piccola che era stata adottata. Ancora oggi mia sorella 35 anni mi rimprovera quanta sofferenza provava da bambina pensando e credendo di essere stata una figlia adottiva. Invece c'è un messaggio di Stefania che dice: pensare che io e mio marito dovremmo raccontare presto a nostro figlio che è un meraviglioso fiore che abbiamo colto quasi 3 anni fa in Armenia. Patrizia, tu hai dei figli adesso, che uno che compie gli anni adesso oggi. Ho due figli, sì, ho un ragazzo di 19 anni che va per i 20 e Valerio che proprio oggi compie 13 anni. Valerio, 13 anni, quindi fa seconda media. Seconda media, sì. Seconda media. Hai mai chiesto? Ne approfitto per fargli gli auguri. Ma certo, come no. Dov'è Valerio adesso? E credo che sia a casa ad ascoltare, spero. Perché tu dove sei invece, Patrizia? Io sono fuori, ho preferito rimanere fuori, okay. Volevo stare un po' da sola. Quindi sei in macchina, ad esempio. Che loro stanno ascoltando, anche i miei fratelli, anche gli amici, e quindi mi andava di stare benissimo. Un po' in disparte. Dimmi, sono proprio curioso di sapere dove sei in macchina, sei in campagna, nel tuo ufficio? No, sono scesa dalla macchina, sono in un borgo, un bellissimo borgo di Fossanova, è un centro medievale dove si respira un'aria molto... di pace. Perché tu, Patrizia, nella vita invece lavori in una scuola, giusto? Io lavoro in una scuola, in ufficio, sì, lavoro nella parte amministrativa di una scuola. Senti, com'è nel 2014 lavorare nella scuola pubblica? È molto difficile, ma come puoi ben sapere. No, no, ma certo, infatti te lo chiedo proprio per capire qual è la cosa più complicata, però, soddisfare le esigenze delle persone, trovare il modo per tirare la fine dell'anno. Accontentare le persone, ascoltare i genitori, ascoltare le problematiche dei genitori rispetto ai loro figli e anche i docenti stessi che sentono molto disagio in questo periodo, diciamo, storico che stiamo vivendo. Che età hanno gli allievi? Che scuola è? È una scuola, è un istituto comprensivo che parte dai 3 ai 13 anni, scuola materna, elementare e media. Ah, wow, quindi c'è un bel percorso. Sì. Ma tu sei direttore amministrativo, ci scrivevi? Sì. Che cosa vuol dire? Tipo, no, non è il preside, sì, è quello il direttore didattico. La parte amministrativa è contabile di un ufficio, la parte diciamo un po' più burocratica. Non ho stretto contatto con gli alunni. No, ho capito. Però insomma, conosco tutte le dinamiche, sì. Qual è stato il taglio che ti ha dato più fastidio che è arrivato sulla scuola? Il taglio più di cui ci si lamenta quotidianamente è il funzionamento della scuola, le spese di funzionamento, quindi proprio l'acquistare beni per i ragazzi primari. Cioè, la famosa carta igienica di cui si parla sempre, i fogli delle fotocopiatrici. Ma vi è mai capitato di rimanere senza carta igienica? In ogni caso versare un contributo per andare avanti, sì. Ma ti è veramente mai capitato di rimanere senza carta igienica a scuola? Sì, è capitato. Capita molto spesso. Perché quando si compra se ne compra poca, perché il budget è basso. Quindi se ne compra per 1 o 2 mesi e poi puntualmente finisce. Sì. Patrizia, grazie mille anche per questa puntata fuori dalla tua storia. Però grazie soprattutto per avercela raccontata. Saluti ancora ai tuoi figli e soprattutto tuo figlio che compie 13 anni. Grazie mille, grazie ciao, a voi. Ciao Patrizia, buona giornata. Arrivederci, ciao. Grazie. 349-238-6666. Massimiliano, certamente ho creduto di essere stato adottato quando ho cominciato a fare i primi paragoni con mio fratello sull'aspetto fisico e il carattere. Purtroppo e per fortuna siamo fratelli. Io, niente, ricorderò sempre questa amica che aveva un fratello che gli diceva: ma no, guarda, tu sei stata adottata da una famiglia rom, come, non lo sai? Poi lei è cresciuta ed era identica a suo papà, quindi il timore è stato fugato. Io vi ricordo di scaricare i podcast del programma tutti i giorni dal nostro sito o da iTunes gratuitamente, ma soprattutto di raccontare storie. Raccontate storie quando vi capita, raccontate storie vere o inventate ai vostri figli, ai vostri amici. Come diceva mia nonna, raccontare storie ti regala un punto diverso sulla vita, ti dà un aspetto, una possibilità di vedere che c'è un'altra possibilità, che non sei l'unico del mondo e non sei quindi l'unico figo o l'unico scemo nel mondo, semplicemente ci sono altre possibilità di fare la stessa cosa in altri modi. Se avete voglia di raccontarla a noi, voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Hina, grazie soprattutto a Patrizia, la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Matteo, abito a Quadrata. La storia di domani è la mia, parla di un viaggio verso la Francia e un viaggio interiore soprattutto. Questa è la mia storia e io sono qui.